Maria Montessori, Educazione per un mondo nuovo. Dal 1942 fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale, Maria Montessori, già settantenne, visse in India, vicino Madras, come internata di guerra. Fu lì che ebbe modo di conoscere la filosofia e la spiritualità orientali, che le diedero modo di ampliare la sua visione dell'educazione, comprendendo il concetto di un fine e un contesto più ampio in cui siano inserite le singole vite umane. Un contesto cosmico che da adesso in poi diverrà la cornice della sua visione educativa. In India diede vita a scuole dove venivano accolte sia creature europee, figlie degli ufficiali, sia creature native, e poté osservare dunque come i bambini e le bambine vivevano la diversità culturale e sociale in una fase iniziale, pre-discriminatoria. Ebbe contatti con la società teosofica e tenne una serie di conferenze raccolte proprio dalla società teosofica nel presente volume, nelle quali poneva enfasi sull'aspetto umano del popolo indiano e sulla via che portava a quello che lei stessa definì il piano cosmico, in sintonia con la nascita di quello che lei stessa definì uomo nuovo con la U maiuscola, intendendo l'essere umano, quindi anche le donne, e di una società mondiale pacifica e prospera in cui l'essere umano non sia più vittima degli eventi, ma grazie alla chiarezza della sua visione, possa divenire capace di costruire e dirigere l'avvenire della società umana. Capitolo primo. Introduzione. Questo libro si propone di illustrare e difendere le grandi capacità insite nel bambino e di avviare gli insegnanti a un nuovo modo di considerare il loro compito, che farà della loro opera non più un'ingrata fatica, ma una gioia. Non più repressione, ma collaborazione con la natura. Il nostro mondo è stato lacerato e ha ora bisogno di essere ricostruito. E in questo un fattore di primaria importanza è l'educazione, di cui i pensatori d'oggi raccomandano generalmente una pratica più intensa, non meno che un ritorno alla religione. Ma l'umanità non è ancora pronta per l'evoluzione a cui così ardentemente aspira, ossia la costruzione di una società pacifica e armonica in cui la guerra sia eliminata. Gli uomini non sono sufficientemente educati per controllare gli avvenimenti e così ne divengono vittime. Le nobili idee, gli elevati sentimenti hanno sempre trovato espressione, ma le guerre non sono cessate. Se l'educazione dovesse continuare lungo le vecchie linee, coi vecchi sistemi di semplice trasmissione di nozioni, il problema sarebbe insolubile e non vi sarebbe speranza per il mondo. Solo un'analisi scientifica della personalità umana può portarci alla salvezza, e nel bambino noi abbiamo davanti un'entità psichica, un gruppo sociale di enormi dimensioni, una vera potenza nel mondo, quando sia usata nel modo giusto. Se vi è per l'umanità una speranza di salvezza e di aiuto, questo aiuto non potrà venire che dal bambino, perché in lui si costruisce l'uomo e di conseguenza la società. Il bambino possiede un potere interiore che può guidarci verso un futuro più luminoso. L'educazione non dovrebbe più limitarsi a trasmettere delle nozioni, ma deve prendere nuove vie, mirando allo sviluppo delle capacità potenziali dell'uomo. Quando dovrebbe cominciare una tale educazione? La nostra risposta è che la grandezza della personalità umana comincia dalla nascita, e questa affermazione, pur essendo stranamente mistica, ha salde radici nella realtà concreta. La vita psichica del neonato ha già suscitato il più vivo interesse negli scienziati e negli psicologi che hanno osservato le reazioni del bambino da 3 ore a 10 giorni dopo la nascita, e sono giunti alla conclusione che i primi 2 anni di vita sono i più importanti. L'osservazione dimostra che i bambini piccoli sono dotati di speciali qualità psichiche e addita nuove vie per svilupparle, letteralmente educarle, collaborando con la natura. L'energia costruttiva del bambino, viva e dinamica, è rimasta ignorata per millenni ed è una miniera di tesori mentali, proprio come gli uomini che per primi calpestarono la superficie della terra, nulla conoscevano delle immense ricchezze sepolte nelle sue profondità. L'uomo è tanto lontano dal rendersi conto delle energie celate nel mondo psichico del bambino che fin dall'inizio non ha fatto altro che che reprimerle e ridurle in polvere. Ora, per la prima volta, qualcuno è arrivato a intuire l'esistenza di questo tesoro, che non è stato mai sfruttato, un tesoro più prezioso dell'oro, l'anima stessa dell'essere vivente. L'attenta osservazione dei primi 2 anni di vita ha gettato nuova luce sulle leggi dello sviluppo psichico, mostrando come la psicologia dell'infanzia sia sostanzialmente diversa da quella dell'età adulta. Di qui, dunque, prende inizio la nuova strada, in cui non sarà più il professore che insegna al fanciullo, ma il fanciullo che insegna al professore. Questo può sembrare assurdo, ma apparirà subito chiaro quando ci si renda conto della speciale natura della mente infantile che assorbe le cognizioni e così si istruisce. Lo dimostra facilmente il modo in cui il bambino impara a parlare, ardua e mirabile impresa intellettuale. Il bambino di 2 anni parla la lingua dei suoi genitori, benché nessuno gliel'abbia insegnata. Gli studiosi, che si sono interessati di questo fenomeno, ammettono che in un certo periodo della sua vita il bambino comincia ad usare nomi e parole in rapporto col suo ambiente e ben presto impara a impiegare con la massima disinvoltura tutte quelle costruzioni sintattiche e quelle forme irregolari che risultano tanto difficili agli adulti quando studiano una lingua straniera. Insomma, il bambino ha in sé un maestro scrupoloso e assai esigente, che osserva persino una vera e propria tabella di marcia. A 3 anni ha acquistato un corredo di cognizioni che a un adulto, a quanto affermano gli psicologi, costerebbe non meno di 60 anni di duro lavoro. L'osservazione scientifica ha inoltre stabilito che la vera educazione non è quella impartita da un maestro. L'educazione è un processo naturale che si svolge spontaneamente nell'individuo e si acquisisce non ascoltando le parole degli altri, ma mediante l'esperienza diretta del mondo circostante. Il compito del maestro o della maestra sarà dunque di preparare una serie di spunti e incentivi all'attività culturale, distribuiti in un ambiente espressamente preparato, per poi astenersi da ogni intervento troppo diretto e invadente. I maestri umani non possono far altro che aiutare la grande opera mentre si compie sotto i loro occhi, come i servi aiutano il padrone. Così facendo, assisteranno allo sviluppo dell'anima umana e alla comparsa dell'uomo nuovo, che non sarà più la vittima degli avvenimenti, ma avrà la chiarezza di visione necessaria per dirigere e plasmare il futuro della società umana. Capitolo 2. Scoperta e sviluppo del sistema Montessori. Se il sistema educativo deve essere riformato, è necessario basarlo sul bambino stesso. Oggi non basta più studiare i grandi pedagogisti dei secoli scorsi. Non è più il tempo di rifarsi al passato. Io stessa del resto non voglio essere salutata come la grande educatrice di questo secolo. Io non ho fatto altro che studiare il bambino e ricevere ed esprimere ciò che egli mi ha dato e che viene chiamato il metodo Montessori. Tutt'al più, io sono l'interprete del bambino. Ho alle spalle un'esperienza di 40 anni di lavoro che ho cominciato partendo dallo studio medico e psicologico di bambini subnormali a cui ho cercato di portare aiuto. Ho avuto così modo di vedere che questi bambini, indirizzati in base al nuovo metodo di collaborazione con le loro menti subconsce, sviluppavano capacità veramente notevoli, tanto che si è deciso di estendere l'esperimento anche a bambini normali. In alcuni dei più poveri quartieri di Roma si fondarono case dei bambini, destinate a raccogliere piccoli ospiti dai 3 anni di età in poi. I visitatori restavano stupiti nel trovare bimbetti di 4 anni che sapevano leggere e scrivere e domandavano: «Chi ti ha insegnato a scrivere?» Il bambino, guardandoli meravigliato, rispondeva: «Insegnato? Nessuno mi ha insegnato, ho imparato da solo». La stampa cominciò a parlare di questa spontanea acquisizione della cultura. Gli psicologi affermarono che doveva trattarsi di bambini dotati di speciale talento. Anch'io per qualche tempo condivisi questa loro convinzione, ma da esperimenti ancora più estesi risultò ben presto che tutti i bambini possedevano queste capacità. L'erronea idea che l'educazione fosse possibile solo dopo i 6 anni faceva perdere del tempo prezioso e ostacolava fortemente lo sviluppo infantile. Leggere e scrivere sono gli strumenti primari della cultura, senza i quali nessun'altra acquisizione culturale è possibile. Eppure non sono attività naturali per l'uomo, come lo è il linguaggio parlato. Soprattutto l'imparare a scrivere è considerato di solito un compito così arduo che è riservato solo ai più grandicelli. Io riuscii invece a insegnare le lettere dell'alfabeto ai bambini di 4 anni, ripetendo con bambini normali esperimenti che avevo tentato con dei piccoli ritardati. Avevo osservato che il presentar loro semplicemente le singole lettere un giorno dopo l'altro non faceva su di loro un'impressione durevole, ma quando feci incidere le forme delle lettere nel legno, con scanalature profonde, e insegnai loro a passare le punte delle dita lungo quelle scanalature, appresero immediatamente a riconoscere ogni lettera. Persino i bambini subnormali con questo sistema, dopo un certo tempo, imparavano un po' a scrivere. Così mi resi conto che il senso del tatto doveva essere un grande aiuto per i bambini che non si erano ancora sviluppati completamente, e preparai per essi semplici lettere di cui dovevano seguire i contorni con la punta delle dita. Un fenomeno assolutamente inaspettato si ebbe quando questo metodo fu applicato con bambini normali. Si presentarono le lettere alla scolaresca nella seconda metà di settembre e i piccoli allievi quell'anno scrissero da sé le loro letterine di Natale. Una tale rapidità era più di quanto si potesse sperare. Inoltre i bambini cominciarono a far domande sulle lettere, ricollegandole ai suoni. Sembravano piccole macchine intese ad assorbire avidamente l'alfabeto, come se ci fosse stato nelle loro menti un vuoto che lo aspirava. La cosa ci sorprese profondamente, eppure non era difficile da spiegare. Le lettere costituivano uno stimolo che illustrava il linguaggio già nella mente del bambino e lo aiutava ad analizzare le sue stesse parole. Quando il bambino era in possesso di un certo numero di lettere, se gli veniva in mente un nome che includeva suoni diversi da quelli che egli sapeva già rappresentare, si trovava naturalmente spinto a domandare come si scrivessero. Vi era in lui un impulso interiore a imparare sempre di più e si metteva tutto solo a compitare i vari suoni di parole che conosceva e usava nel parlare. Per quanto lunga e difficile fosse la parola, il bambino riusciva a rappresentarla. Dopo che il maestro o la maestra l'aveva dettata anche una sola volta, scegliendo le lettere necessarie da una scatola a scomparti previamente preparata. Il maestro o la maestra diceva rapidamente una parola, passando, e al ritorno vedeva che i bambini l'avevano scritta con le lettere mobili. Per questi frugoletti di 4 anni bastava pronunciare la parola una volta, mentre un bambino di 7 anni o più ha bisogno di sentirsela ripetere più volte per afferrarla correttamente. Tutto questo era evidentemente dovuto a questo speciale periodo sensitivo in cui la mente è come morbida cera, suscettibile a quell'età di ricevere impressioni che difficilmente saprebbe recepire a una fase più avanzata, quando questa speciale malleabilità è scomparsa. Il fenomeno della scrittura si verificava come ulteriore risultato del lavorio interno che si compiva nella mente del bambino. Rendendosi conto della formazione di una parola dai suoni che la compongono, egli l'analizzava e la riproduceva mediante l'alfabeto mobile. Conosceva la forma di ogni lettera perché l'aveva toccata più e più volte. Così imparava a scrivere quasi all'improvviso, come un'esplosione simile all'esplosione del linguaggio. Quando il meccanismo si era formato ed era maturo, l'intero linguaggio si manifestava. Non come succede di solito nelle scuole comuni, in cui si impara prima una lettera e poi una combinazione di due. Se il piccolo allievo o allieva ne impara uno o due, può imparare anche il resto. Il bambino o la bambina sa scrivere e perciò può scrivere tutte le parole della lingua. Ora, egli o ella scrive continuamente non come fredda obbedienza al dovere, ma come entusiastica obbedienza all'impulso. Queste creature usavano tutto ciò che capitava loro nelle mani per scrivere, magari con un pezzo di gesso sul marciapiede o su una parete. Ovunque ci fosse uno spazio libero, adatto o meno, si trovava scritta qualche parola, una volta persino su una pagnotta. Le loro povere madri analfabete, che non possedevano penne né carta, venivano a chiederci aiuto per soddisfare i bisogni delle loro creature. Noi le rifornivamo del necessario e questi bambini si addormentavano con la matita in mano, scrivendo fino all'ultimo minuto della loro giornata. In un primo momento pensammo di aiutarli distribuendo dei fogli rigati, con doppia spaziatura che andava gradualmente restringendosi, ma ben presto risultò che questi bambini sapevano scrivere con eguale facilità su qualsiasi rigatura. Anzi, alcuni si compiacevano di una scrittura minutissima e appena leggibile. La cosa più singolare era che scrivevano in bella scrittura, meglio che gli allievi del terzo anno nelle altre scuole. Le loro scritture erano molto simili, perché tutti avevano toccato le stesse lettere, per cui nella loro memoria muscolare si erano fissate le stesse forme. Ora, questi bambini sapevano scrivere, ma non sapevano leggere. La cosa può sembrare a prima vista strana e assurda, ma una più attenta riflessione risulta abbastanza logica. Generalmente le creature imparano prima a leggere e poi a scrivere, ma i nostri piccoli allievi e allieve avevano anzitutto analizzato le parole nella loro mente e le avevano riprodotte con le lettere mobili collocate l'una accanto all'altra, ricollegando ogni lettera a un suono della lingua che il bambino o la bambina ha in sé e che già usa parlando. Questa unione fra lettera e linguaggio aveva avuto luogo durante il periodo sensitivo e il linguaggio si era moltiplicato. Ora veniva espresso anche dalla mano con la scrittura, invece che soltanto dalle labbra con la parola. Tuttavia, i nostri bambini e bambine non sapevano leggere. E in un primo tempo pensammo che l'ostacolo principale poteva essere la differenza fra le lettere stampate e quelle corsive usate nella scrittura. Stavamo pensando di introdurre diversi tipi di lettere per superare questa difficoltà, quando all'improvviso le creature cominciarono a leggere da sole, e a leggere ogni tipo di carattere di stampa, persino quelli gotici che si potevano trovare nei calendari. Questo avveniva 5 mesi dopo il primo tentativo di comporre parole con lettere mobili. Si trattava ancora di un intimo impulso che aveva spinto il bambino a fare uno sforzo per capire il significato di quei simboli strani. In lui si compiva un lavorio simile a quello degli scienziati che studiano iscrizioni preistoriche in lingue sconosciute. E mediante un'analisi comparativa e un'attenta osservazione riescono a trarre da ignoti segni un significato. Una nuova fiamma si accendeva nel cuore del bambino o della bambina. I genitori si lamentavano che non potevano condurre i loro figli a fare una passeggiata senza che si fermassero davanti a ogni negozio a compitarne le insegne. Alla fine del quinto anno d'età, i piccoli allievi potevano leggere qualsiasi libro. Vi è un altro campo della cultura che non è così facile da spiegare come la scrittura. Si tratta della matematica. Noi consideriamo la matematica da questi tre punti di vista: aritmetica, la scienza del numero; algebra, l'astrazione del numero; e geometria, l'astrazione dell'astrazione. Guidati dalla nostra esperienza della mentalità infantile, noi abbiamo presentato questi tre campi insieme e a un'età incredibilmente precoce. Questo sistema di unire i tre rami si è dimostrato assai efficace. Come se invece di equilibrare l'argomento su un solo precario perno, lo sistemassimo su tre robusti piedi che si uniscono per dare maggiore stabilità. Per esempio, presentando i numeri, li raggruppiamo in forme geometriche e il nostro materiale matematico è stato studiato in modo da presentare i tre argomenti quasi simultaneamente. I bambini hanno dimostrato una particolare tendenza e quasi una passione per lo studio dei numeri e la loro disposizione geometrica. Subito dopo, mediante l'algebra, si è data l'idea astratta di queste quantità e dei loro rapporti. Anche questo doveva riservarci una grande sorpresa, perché in un primo tempo i bambini non dimostrarono lo stesso interesse che avevano manifestato per la scrittura. Era facile dire che il bambino si interessava al linguaggio, ma non alla matematica, che era troppo arida per lui, troppo astratta. Il fatto è che anche noi eravamo dominati dai pregiudizi. E avevamo limitato la matematica alle quattro operazioni fondamentali, nell'ambito dei primi 10 numeri. I bambini stessi ci rivelarono la verità, perché quando presentammo ai più grandicelli il sistema decimale, i bambini di 5-6 anni lo accolsero e lo impararono con grande entusiasmo, un entusiasmo che non avevano certo dimostrato per i numeri della prima decina. Con nostra grande sorpresa, anche i bambini di 4 anni vollero affrontarlo e ci si misero con tanto impegno che ora abbiamo dei piccini di 3 anni capaci di eseguire operazioni coi milioni. Non solo, ma abbiamo dovuto iniziarli all'algebra e alla geometria. Se queste materie sono presentate come materiale da maneggiare, i bambini le affrontano con vivissimo piacere. Con quale emozione abbiamo un giorno trovato un bambino che stava sviluppando tutto da solo il cubo di un trinomio. Aveva pensato fra sé che se si potevano usare A e B, perché non le altre lettere dell'alfabeto? Il bambino non ama le limitazioni. Questo brillante, fulmineo sviluppo non ha una precisa storia con il linguaggio. Non possiamo rintracciarne la genesi e il decorso nella mente prima del suo manifestarsi, per cui dobbiamo ammettere l'esistenza di una speciale disposizione per la matematica in questi primi anni dell'infanzia. Le operazioni che destano nel fanciullo non solo interesse, ma addirittura entusiasmo, sono quelle che richiedono da lui la maggiore precisione. Più complicato è l'argomento, maggiore è il suo entusiasmo. Questa precisione risulta non solo nei movimenti, nei gesti esatti richiesti da taluni esercizi, ma anche nello studio di un fiore o di un insetto. Esiste, senza dubbio, una predisposizione all'esattezza e al particolare preciso che può essere diretta all'osservazione della quantità. L'aritmetica è una specie di astrazione e perciò porta questa esattezza sul piano astratto. Il bambino, partendo dal materiale, passa al numero astratto e di qui al livello ancora più astratto dell'algebra e lavora con precisione in tutti e tre i campi, quello materiale, quello astratto e quello algebrico, felice di poter capire il gioco delle unità. Noi siamo giunti a questa conclusione sulla scorta del grande filosofo e fisico Pascal, profondo conoscitore di numeri e quantità. Egli asseriva che la mente umana ha la caratteristica di essere matematica e questa qualità mentale segna la via del progresso. Questa affermazione generalmente è accolta con un sorriso di incredulità perché l'esperienza pratica dei comuni insegnanti sembra dimostrare che di tutte le materie la matematica è la più ostica per la mente umana. Ora, proprio i bambini più piccoli dimostrano che Pascal ha ragione. Approfondendo le sue conclusioni, Pascal affermava che l'intera opera dell'umanità è rivolta all'ambiente e si svolge entro limiti sempre più esatti. Questa esattezza può essere ottenuta solo dalla mente e dimostra che la mente possiede questa qualità matematica. La mente umana, come si vede dalla storia, si è sempre dedicata alla trasformazione dell'ambiente e all'interpretazione degli oggetti che la circondano e dei fenomeni che ne sono provocati. Per ottenere ciò, è necessario rendersi esattamente conto di questi oggetti ed essere meticolosi nel campo della precisione. 2 secoli fa, Pascal riscontrava che la precisione è appunto una caratteristica fondamentale della mente umana. Per quel che riguarda l'importante problema della fatica, i bambini sotto i 6 anni hanno rivelato un fatto stranissimo. Nelle scuole comuni il piccolo allievo si stanca presto e l'insegnamento diventa allora difficile. Per conseguenza si è pensato che fosse una crudeltà cominciare troppo presto con la scuola. I genitori avveduti vogliono che i loro piccoli non facciano altro che giocare e dormire. Ma diversi sintomi ci dicono che gli stessi bambini si annoiano maledettamente a questo programma e reagiscono con ogni sorta di bricconate. L'esperienza da noi fatta coi bambini dai 3 ai 6 anni e anche più giovani ha dimostrato che non solo non fanno fatica a imparare a quell'età, ma si irrobustiscono e sviluppano nuove forze. Non tutto il lavoro provoca fatica. Per esempio, quando mangiamo noi facciamo un sacco di lavoro, con le mascelle, i denti e la lingua, e da questo lavoro ci viene una rinnovata energia. Allo stesso modo sentiamo un bisogno naturale di esercitare i muscoli per irrobustirli. Lo stesso avviene nello sviluppo mentale dei bambini. Non solo sembrano infaticabili, ma con l'attività intellettuale acquistano maggior forza e salute. Nei primi anni dell'infanzia esiste nell'uomo una disposizione naturale a recepire la cultura, ma la società trascura questo periodo sensitivo col suo regime del gioco e del sonno. Tuttavia il bambino non può cessare di assorbire e di essere attivo e se non ha nulla da assorbire deve accontentarsi dei balocchi. Gli psicologi dicono che il bambino deve giocare perché attraverso il gioco giunge a perfezionare le sue facoltà. Anch'essi ammettono che il bambino assorbe un determinato ambiente e forgia l'anello storico fra il passato e il futuro. Ma ne concludono che dobbiamo restare ad osservare, senza disturbarlo, mentre egli assorbe il presente giocando e vivendo, e non dobbiamo aiutarlo, ma abbandonarlo alle sue sole risorse. Ora, come può un fanciullo, in un mondo così complesso, assorbire la cultura se lo lasciamo solo a giocare coi suoi balocchi e a costruire castelli di sabbia? Vi è dunque una contraddizione nel pensiero di questi psicologi quando affermano che è importante comunicare col bambino nella fase assorbente, ma che si deve lasciarlo solo a giocare continuamente, perché così costruisce e sviluppa le sue facoltà. Il gioco è stato esaltato come qualcosa di mistico, e uomini seri e dignitosi si fermano reverenti davanti a un bambino che costruisce castelli di sabbia. Ma logicamente, se è vero che in questo periodo, dai 3 ai 6 anni, il bambino presenta per natura particolari attitudini a una facile acquisizione di elementi culturali, noi dovremmo sfruttare queste attitudini e circondare il bambino di oggetti tali che, maneggiandoli, egli si trovi naturalmente a compiere i primi passi sulla via della cultura. Se poniamo intorno a lui degli oggetti che lo inducano a imitare le attività degli adulti e lo aiutino a perfezionare le acquisizioni già fatte nel primo periodo, lo avviamo a conquistare la complessa cultura del nostro tempo. E gli oggetti che gli presentiamo non sono più semplici balocchi da mettere insieme alle bambole, ai soldatini di stagno e ai pupazzi. E che cosa preferiscono i bambini? Quando si offre loro il materiale Montessori, vi si gettano sopra con un entusiasmo che finora era considerato incredibile. Queste menti affamate, trovandosi all'improvviso in un ambiente che da sole non sanno comprendere e dominare, quando si vedono offrire i mezzi per farlo, vi si gettano come leoncelli bramosi e divorano qualunque cosa li possa aiutare a sopravvivere, e così si adattano alla civiltà che si è evoluta fino ad oggi. Considerando le grandi possibilità insite nel bambino e la loro enorme importanza per l'umanità, dobbiamo ora esaminarle più da vicino, per vedere in che modo possiamo contribuire al loro sviluppo. Invece di riporre una mistica fiducia nel gioco infantile, dobbiamo avere fede nel bambino stesso. Dobbiamo impegnarci a creare una scienza pratica per tradurre in atto queste capacità potenziali che in questi ultimi tempi la nostra intuizione è giunta a riconoscere. Capitolo 3. Periodi e natura della mente assorbente. La nuova concezione si pone al centro dell'opera educativa e modifica tutte le idee precedenti sull'educazione infantile. La scuola non sarà più un mondo a parte, né si vorrà proteggere il bambino isolandolo accuratamente dai contatti sociali. Perché la vita possa essere efficacemente protetta, è necessario studiarne le leggi con simpatia. E gli psicologi che hanno osservato i bambini fin dal primo anno di vita affermano che proprio in questo periodo ha luogo la costruzione dell'uomo futuro. Dal punto di vista psichico, alla nascita nulla ancora esiste, zero, e non solo nel campo psichico. Alla nascita il bambino è quasi paralitico, incapace di fare alcunché, ma dopo qualche tempo già parla, cammina, passa di conquista in conquista, finché ha costruito dentro di sé l'essere umano con la U maiuscola, in tutta la sua grandezza, con tutta la sua intelligenza. Queste grandi capacità potenziali del bambino, che finalmente hanno attirato l'attenzione di altri scienziati oltre che la mia, restavano finora nascoste sotto il manto dell'amore materno. Era la madre, diceva la gente, che insegnava al suo bambino a parlare, a camminare, a ragionare. Ma non è la madre, è il bambino stesso che spontaneamente fa tutto questo. La madre mette semplicemente al mondo il neonato, ma è questo neonato che produce l'uomo o la donna, anche se la madre muore, anche se non può dargli il latte necessario alla sua crescita. Anche quella che usiamo chiamare lingua materna non deriva in realtà dalla madre. Un bambino che nasca in un paese straniero di solito impara con grande facilità la lingua dell'ambiente, anche se i suoi genitori non arrivano mai a parlarla in modo corretto. È evidente che questa capacità non è ereditaria, non è dovuta né al padre né alla madre, ma al bambino stesso, il quale, utilizzando tutti gli elementi che trova intorno a sé, forma e plasma se stesso per il futuro. Secondo alcuni moderni psicologi, che hanno seguito dei bambini dalla nascita all'università nel corso dello sviluppo infantile, si possono distinguere diversi periodi, che corrispondono con singolare precisione alle diverse fasi dello sviluppo fisico. I cambiamenti sono così notevoli che taluni psicologi, esagerando nell'intento di chiarire il concetto, hanno asserito la crescita è una successione di nascite. Sembra quasi che in un certo periodo della vita un individuo psichico cessi di esistere e ne nasca un altro. Il primo di questi periodi va dalla nascita ai 6 anni e per tutto il suo corso la mente del bambino, pur presentando alcune differenze notevoli, resta in sostanza dello stesso tipo. In questo periodo si osservano due fasi, una dalla nascita ai 3 anni, l'altra dai 3 anni ai 6. Nella prima fase, il bambino presenta una mentalità inaccessibile per l'adulto, che non può esercitarvi alcuna influenza. Nella seconda, dai 3 ai 6 anni, la sua entità psichica comincia a divenire accessibile, ma solo in un modo speciale. Questo periodo è caratterizzato da grandi trasformazioni che avvengono nell'individuo, sicché a 6 anni si conviene comunemente che il bambino sia abbastanza intelligente da poter andare a scuola. In realtà, vi può essere ammesso assai prima, secondo il nuovo sistema che qui esponiamo, ma è vero che a 6 anni lo sviluppo del bambino raggiunge una tappa cruciale, segnata da notevoli cambiamenti fisiologici, per esempio la perdita dei primi dentini. Il successivo periodo, dai 6 ai 12 anni, è un periodo di crescita ma non di trasformazione, ed è normalmente caratterizzato da un atteggiamento di serenità e docilità. Il terzo periodo, dai 12 ai 18, presenta di nuovo profonde trasformazioni, sia psichiche sia fisiche. In tutti i paesi, i sistemi ufficiali di istruzione pubblica riconoscono implicitamente l'esistenza di questi 3 periodi. I fanciulli sono ammessi alla scuola elementare a 6 anni e passano alla scuola media intorno ai 12, quando comincia una nuova fase mentale. Durante questo terzo periodo si osserva una certa instabilità del carattere, con una tendenza all'indisciplina e a varie forme di ribellione. Ma la scuola di tipo convenzionale tira avanti senza curarsi di queste reazioni, seguendo i suoi programmi e punendo i ribelli. A 18 anni il giovane può entrare all'università, dove lo aspetta uno studio più intenso, ma condotto con metodi sostanzialmente simili. Lo studente deve continuare a starsene seduto, ad ascoltare, per conseguire una laurea che spesso risulta di dubbia utilità. Il giovane ha raggiunto la maturità fisica, ma tutti questi anni di studio, tutti questi anni di ascolto non hanno formato in lui un uomo con una volontà autonoma e una capacità di giudizio. Lo dovranno formare il lavoro pratico e l'esperienza, se ancora sarà possibile. Così, per esempio, a New York si sono visti cortei di giovani intellettuali che portavano cartelli con le scritte «Siamo senza lavoro, moriamo di fame». Significativo atto d'accusa contro una società che ha speso tanto per la loro educazione. Alcuni studiosi, pensando all'impotenza del bambino appena nato, si sono domandati perché mai l'uomo, l'essere dotato della più alta intelligenza, deve avere un'infanzia più lunga e più penosa di qualsiasi altro animale. E molti si sono chiesti che cosa presumibilmente accade nel periodo dell'infanzia. Deve certamente trattarsi di un'opera di creazione, poiché l'individuo sembra partire da zero. Non si tratta di una vocina, già presente nel neonato, che sviluppa in seguito come il gattino sviluppa il suo imperfetto miagolio o il vitello e l'uccellino si limitano a rafforzare i loro mezzi espressivi. Nel caso dell'essere umano, e in questo caso soltanto, non avviene un semplice sviluppo, ma una creazione dal nulla. Questo è il passo gigantesco compiuto dal bambino, un passo di cui l'adulto non è più capace. Per un'impresa del genere è necessario un tipo di mente diversa da quella dell'adulto, dotata di capacità differenti. E veramente questa creazione del bambino non è opera da poco. Egli crea non solo il linguaggio, ma gli organi necessari ad articolarlo. Crea ogni movimento fisico, ogni mezzo di espressione intelligente. Tutto questo non è fatto consapevolmente dalla volontà, ma da quella che si potrebbe chiamare la mente subconscia, dotata di quel tipo di intelligenza che si trova in tutti gli esseri viventi, persino negli insetti, i quali talvolta sembrano dotati di ragione. Con questa mente subconscia, il fanciullo compie il suo mirabile lavoro di creazione, mediante facoltà così straordinariamente sensitive da somigliare in certo qual modo a una lastra fotografica, e registra automaticamente le impressioni fin nei più minuti particolari. Gli oggetti dell'ambiente sembrano destare nel fanciullo un interesse vivissimo, un entusiasmo che penetra nella sua stessa vita. Questa facoltà subconscia è in grado di discriminare, poiché il bambino nasce col senso dell'udito, in modo da udire la voce umana, perché fra i milioni di suoni che lo circondano, egli sceglie soltanto quella per imitarla. Perché il linguaggio umano ha fatto una speciale impressione sulla sua mente subconscia, evocando una intensità di sentimento, un entusiasmo capace di mettere in vibrazione alcune invisibili fibre per la riproduzione di quei suoni, mentre gli altri non provocano in lui una così viva e fremente sensazione. L'assorbimento di questo linguaggio da parte del fanciullo è così esatto che viene ad essere parte della sua personalità psichica, a tal punto che è chiamato madrelingua e si distingue nettamente da tutte le altre lingue che egli potrà in seguito imparare con notevole sforzo. Si tratta di un lavorio di chimica mentale che produce nel fanciullo una vera e propria trasformazione chimica. Queste impressioni non solo penetrano nella sua mente, ma la formano, si incarnano in lui, perché egli produce la sua propria carne mentale, utilizzando gli oggetti che si trovano nel suo ambiente. Abbiamo chiamato questo tipo di mente la mente assorbente, ed è difficile immaginare la potenza delle sue capacità. Se solo le potessimo conservare più a lungo, la loro perdita è il prezzo che dobbiamo pagare per l'acquisizione della piena consapevolezza umana, e lo paghiamo a caro prezzo, questo passaggio da Dio a uomo. Capitolo 4. Embriologia. Lo studioso che si accinga a penetrare i misteri della mente assorbente è indotto ad esaminare la vita prenatale e il fenomeno stesso del concepimento, al cui proposito si osserva oggi un nuovo orientamento in tutti gli studi biologici. In precedenza, lo studioso soleva prendere in considerazione solo gli esemplari adulti, sia nel campo degli animali che delle piante, e nello stesso modo era l'uomo adulto che formava oggetto dello studio della sociologia. Ora, sembra che la scienza abbia preso la direzione opposta e tanto nello studio della vita umana quanto degli altri tipi di vita tende a considerare le origini e le primissime fasi dell'essere vivente. Passa così in primo piano l'embriologia, la vita della cellula germinale, che risulta dalla fusione di due cellule provenienti da individui adulti. La vita del bambino, ciò che è originato e ciò che origina, parte dall'adulto e finisce nell'adulto, e questa è la via, il corso della vita. La natura ha dotato le creature appena nate di una speciale protezione. Per esempio, il bambino nasce in mezzo all'amore. La sua origine stessa è amore, e una volta nato è circondato dall'amore del padre e della madre. Un amore che non è creato artificialmente, né imposto dalla ragione, come il sentimento di fratellanza che tutte le persone di senno cercano di suscitare e diffondere. Solo nell'ambiente che circonda il bambino si può trovare questo tipo di amore, che è l'ideale della moralità umana, l'amore che ispira abnegazione, che induce a dedicarsi al servizio degli altri. Ora, questo sacrificio dei genitori è qualcosa di naturale che dà gioia e perciò non è sentito come sacrificio. È la vita stessa, ma è un tipo di vita ben più nobile di quello che si esprime nella competizione sociale e nella sopravvivenza del più adatto. Cosa assai singolare, questi due tipi di vita si possono osservare anche negli animali, fra cui i più feroci sembrano addolcire i loro istinti naturali quando hanno una famiglia. Sembra, in questo caso, che gli istinti speciali si sovrappongano a quelli comuni. Gli animali timidi, che possiedono un istinto di conservazione più forte ancora di quello degli uomini, mutano completamente questo istinto in un atteggiamento di protezione per i loro piccoli, trascurando del tutto la propria salvezza. Così il grande biologo francese Fabre conclude che la sopravvivenza della specie è dovuta a questo mirabile istinto materno, e non soltanto alle armi di cui la natura l'ha dotata per affrontare la lotta per la vita. Le giovani tigri non sono forse senza denti e gli uccellini appena nati senza piume? Si resta veramente affascinati davanti a questo rivelarsi dell'intelligenza anche negli ordini inferiori della vita animale. Ogni volta che è necessaria, non per la semplice autodifesa, ma per la protezione dei piccoli. Gli scienziati del secolo scorso pensavano che nella cellula germinale fosse già contenuto un minuscolo uomo del tutto formato, il quale non doveva fare altro che crescere, come nel caso degli altri mammiferi, e disputavano se quell'essere umano in miniatura provenisse dall'uovo femminile o dallo spermatozoo. L'invenzione del microscopio rese possibile uno studio più preciso e la conclusione, accettata con molta riluttanza, fu che non v'è nulla di preesistente nella cellula germinale. Questa cellula si divide in due. Le due parti risultanti si dividono in quattro e da questa moltiplicazione cellulare si forma il nuovo essere. L'embriologia è giunta ad appurare che esiste solo un piano prestabilito di costruzione che porta tutti i segni della ragione e dell'intelligenza. Come un uomo che vuole costruire una casa comincia con l'accumulare i mattoni, così questa cellula per suddivisione accumula un certo numero di cellule nuove e con esse costruisce tre strati o foglietti germinativi entro i quali in seguito si formeranno gli organi. Il modo con cui avviene questa costruzione è veramente straordinario. Comincia in una sola cellula. Un punto intorno al quale le cellule si moltiplicano a ritmo febbrile, mentre altrove la riproduzione cellulare continua come prima. Quando questa febbrile attività cessa, si scopre che un organo si è formato. Lo scopritore ha così interpretato il fenomeno. Vi sono centri di sensibilità intorno ai quali ha luogo un processo costruttivo. I vari organi si sviluppano indipendentemente l'uno dall'altro, come se ciascuno avesse il compito di costruire solo per se stesso. E le cellule intorno a ogni centro, nella loro intensa attività, divengono così unite, così imbevute di quello che potremmo chiamare il loro ideale, che si trasformano e si differenziano dalle altre cellule, assumendo una forma speciale a seconda dell'organo che si viene costruendo. Quando i diversi organi si sono così completati, indipendentemente l'uno dall'altro, qualcos'altro interviene a porli in rapporto fra loro. E quando sono così strettamente uniti che l'uno non può vivere senza l'altro, il bambino nasce. Il sistema circolatorio è il primo elemento che li congiunge. Il sistema nervoso completa l'unione. Il piano di costruzione ci appare basato su un centro di energia a partire dal quale la creazione si compie. Una volta che i vari organi sono completi, sono destinati a congiungersi, a unirsi in un nuovo essere vivente. Tutti gli animali superiori si sviluppano seguendo questo schema. Esiste infatti un solo piano di costruzione in natura. Pare che la psiche umana sia costruita sullo stesso schema. Anch'essa sembra trarre origine dal nulla, poiché nel bambino appena nato, dal punto di vista psichico, pare non vi sia nulla di precostituito e gli organi si vanno formando intorno a un centro di sensibilità. Anche qui si verifica un processo di accumulazione di materiale ad opera della mente assorbente. Dopo di ciò si accendono dei centri di sensibilità, così intensi che una mente adulta potrebbe difficilmente immaginarli, come è chiaramente dimostrato dall'apprendimento del linguaggio. Da questi centri di sensibilità non si sviluppa la psiche stessa, ma gli organi di cui la psiche avrà bisogno in futuro. Anche in questo caso, ogni organo si sviluppa indipendentemente dal resto. Per esempio, il linguaggio, la capacità di calcolare le distanze o di orientarsi in un ambiente, oppure l'attitudine alla stazione eretta e altre caratteristiche coordinate. Ognuna si sviluppa intorno a un centro di interesse così intenso da attrarre il bambino verso una determinata serie di azioni. In ogni caso, dopo che l'organo si è formato, la sensibilità scompare. Quando tutti gli organi sono pronti, si uniscono a formare l'entità psichica. Naturalmente non sarà possibile comprendere la formazione della psiche nel bambino senza conoscere questi periodi sensitivi e l'ordine in cui si presentano. Talvolta si sente obiettare che le generazioni del passato non avevano tutte queste cognizioni, eppure producevano individui sani e forti. Ma non si deve dimenticare che noi viviamo in una civiltà estremamente artefatta, in cui gli istinti naturali che la natura ha dato alla madre sono in gran parte soppressi o sopiti. Una madre di semplici costumi istintivamente sa aiutare il suo bambino nel periodo sensitivo e procurargli l'ambiente che gli occorre, portandolo sempre con sé, proteggendolo col suo amore materno. Oggi le madri hanno in gran parte perduto questo istinto e l'umanità si avvia verso la degenerazione. Per questo è tanto importante studiare le manifestazioni dell'istinto materno, quanto le fasi dello sviluppo naturale del bambino, perché le due cose erano destinate ad essere complementari. Le madri devono tornare a collaborare con la natura, oppure la scienza deve trovare qualche modo per aiutare e proteggere lo sviluppo psichico del bambino, come ha trovato il modo di aiutarne e proteggerne lo sviluppo fisico. L'amore materno è una forza, una delle forze della natura, e deve divenire oggetto di studio per gli scienziati, in modo che le madri, d'ora in poi, possano dare il loro aiuto coscientemente, dal momento che non sanno più farlo per istinto. L'educazione deve fornire alle madri le cognizioni necessarie perché se possano fin dalla nascita venire consapevolmente incontro ai bisogni psichici dei loro figli e figlie, invece di relegarli in ambienti igienicamente impeccabili e farli assistere da bene addestrate bambinaie che soddisfino con perfetta efficienza i loro bisogni fisici. È un fatto che questi bambini rischiano addirittura di morire di ciò che si può chiamare fame mentale o semplice tedio. Il fenomeno è stato clamorosamente dimostrato in una città dell'Olanda dove era stato fondato un istituto per insegnare ai genitori poveri come allevare igienicamente i loro figli. Qui alcuni bambini, orfani di genitori, venivano allevati in condizioni scientificamente perfette, ben nutriti e curati da infermiere addestrate secondo le ultime norme igieniche. Ma quasi tutti questi bambini caddero malati e molti morirono, mentre i bambini poveri che venivano portati alla clinica dai loro genitori non soffrivano di quel male ed erano evidentemente assai più sani di quei piccoli esemplari di allevamento igienico. Così i medici si resero conto che nel loro istituto mancava qualcosa di vitale e introdussero alcuni cambiamenti. Le infermiere cominciarono a imitare le madri coi loro bambini, prendendoli in braccio e giocando con loro, e facendo proprio quello che facevano le madri, quando non sapevano nulla dei sistemi di allevamento scientifico, ma erano guidate dall'amore naturale e non badavano a proteggerli troppo dai contatti sociali, e i bambini cominciarono a rifiorire in salute e a sorridere.